prenditene cura, cosa? Prenditene cura. Guarda, tra l'altro un sacco di gente mi dice: ah, ma ti assomiglia tantissimo, ma sei tu, l'hai fatto tu. Però ciao Salvatore. Massimo, ciao. Ciao Massimo. Ho visto quello in piazza San Gaetano, che è molto molto bello, non mi ricordo qual è. Santa Restituta. Esatto. Ma non c'è più Santa Restituta, l'hanno tolto. Protettrice dei migranti, giusto era? Era quella protettrice dei migranti. No, ma sono tutti migranti, perché sono tutti santi migranti questi qui. Radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Giulio, sono qui con Tony e soprattutto con Massimo Pastore. Siamo a Napoli, in via Costantinopoli, non è un caso, e ci troviamo qui perché inizia il nostro personale tour guidato. Siamo contentissimi di avere questa opportunità, ci sentiamo fortunati. Inizia qui il tour di Santi Migranti, quindi ci troviamo al civico 37, dovrebbe essere, non sappiamo bene. È una chiesa insomma, non chiusa da sempre, da che ho memoria. E in effetti insomma, questo piccolo poster che vediamo su questa sala cinesca è l'inizio, è quello che è stata poi, se vogliamo, la genesi del progetto di Santi Migranti. E a un certo punto nel mese di febbraio ho cominciato insieme ad altre persone a collocare in giro per Napoli, ma non solo per Napoli, a Bruxelles, a Roma, a Torino e in altre località italiane, questi manifesti che riproducono nella maggior parte dei casi insomma, le iscrizioni delle lapidi che ci sono nel cimitero di Lampedusa. Quindi, chiaramente parliamo di tombe e di persone che sono state ritrovate morte in mare o che sono state ritrovate morte su un barcone, persone che hanno cercato di andare via da situazioni di difficoltà, qualunque esse siano, per arrivare ad avere un'idea di speranza insomma, nella nostra Europa. Purtroppo molti di loro, tantissimi di loro, non ce l'hanno fatta. E questa è una di quelle iscrizioni che racconta la storia di Esther Ada, che è una ragazza diciottenne nigeriana che fu trovata morta all'interno di un barcone insieme ad altre persone al largo della costa di Lampedusa. Anche in questa situazione, parliamo del 2009, ci fu un assurdo braccio di ferro tra governo maltese e il governo italiano per capire chi doveva accogliere questi quattro disperati, perché insomma erano pochi. E quindi alla fine insomma, riescono ad arrivare ad approdare a Lampedusa, all'interno del barcone anche il corpo senza vita di Esther Ada. Questa è una delle tante storie, spesso sono manifesti che hanno semplicemente un numero con data di morte, spesso con la dicitura migrante non identificato, quasi come se quel corpo venisse poi spogliato definitivamente dal proprio essere persona, non sei neanche più persona, se viene identificato come migrante, quindi il migrante diventa un termine identificativo che va un po' a discapito dell'essere umano, se vogliamo. Insieme a questi manifesti c'erano anche le storie dei grandi naufragi degli ultimi anni, quindi a partire da quella del 3 ottobre del 2013, dove a Lampedusa morirono 368 persone, fino a quelli più recenti, fino anche a quello del 7 ottobre 2019. Purtroppo spesso vengono strappati, perché chiaramente questo è un lavoro che scuote le coscienze e soprattutto non viene accolto da chi la pensa diversamente. E quindi questa è la genesi. Mentre si attaccavano questi manifesti io cercavo di darmi una risposta a una domanda che mi ponevo: come si può trasformare qualcosa di negativo in positivo? Quindi come faccio io, che sono alla fine un artista, a trasformare un concetto contro, quindi anti-migrante, in qualcosa invece di positivo? Ed è lì che mi è venuta in mente la prima santa che io poi ho realizzato, che è una santa molto cara a Napoli perché è Santa Patrizia, copatrona della città, molto amata in città, che fugge da Costantinopoli inizialmente per evitare un matrimonio imposto dal padre, quindi fa questo viaggio in Terra Santa. Poi a un certo punto arriva a Napoli, sull'isolotto di Megari, dove adesso c'è il Castel dell'Ovo, ed è interessante come chiaramente queste storie si fondono sempre un po' con la leggenda. Ed è interessante in questo caso come la leggenda di Santa Patrizia si fonde un po' anche con la storia della sirena Partenope, che anch'ella insomma, si lascia naufragare e arriva sulle coste, sulla costa dell'isolotto di Megaride. Santa Patrizia arriva, ha una vita brevissima perché fonda un piccolo monastero, ma muore giovanissima. Quello che è interessante è che queste storie, per esempio questa storia di Ester Ada in particolare, per come è stata raccontata sulla lapide, si intreccia con le storie di quelle che sono state poi queste figure che sono entrate a far parte proprio della cultura e dell'attenzione, no? Nostra. Spesso li abbiamo, i loro santini sono nei nostri portafogli, li abbiamo sugli altarini, e quindi in realtà poi sono storie molto simili, perché paradossalmente, così come Ester Ada, come il corpo di Ester Ada è arrivato a Esanime senza vita alle coste, al largo delle coste di Lampedusa, così poi il corpo esanima in una splendente di Restituta arrivò nella baia di Lacquameno, nel San Montano, nell'isola di Ischia. Quindi ci sono veramente delle similitudini, perché le sono storie umane alla fine. Noi sono state poi persone che sono state santificate dopo, parlo dei santi migranti, però in realtà sono persone come tutti quanti noi, sono state persone come tutti quanti noi che si sono semplicemente contraddistinte per una grande umanità. Ora possono essere santi laici, santi cattolici, santi anche di altre religioni, perché insomma per me una persona santa è una persona che in qualche modo si spoglia dell'egocentrismo, dell'egoismo per rivolgersi poi agli altri. Io non sono neanche cattolico, quindi se non di cultura e di... però insomma bisogna riconoscere insomma il valore simbolico anche di certe figure, di certe persone che io, al di là del fatto che siano santi, io le chiamo comunque persone, perché siamo sempre tutti quanti persone, non ce lo dobbiamo sempre ricordare questo. Qui abbiamo questo residuo di San Luca Evangelista, che è stato collocato una notte, ma già dopo il secondo giorno è stato strappato. Resiste l'immagine del volto e della Madonna Nera, perché San Luca, oltre ad essere molto bello secondo la storia e la leggenda, era anche un artista, e c'è questa Madonna Nera che fu a lui attribuita, è stata a lui attribuita, ed è il patrono degli artisti. Quest'opera, se ci riusciamo, la vedremo poi integralmente all'interno del nuovo Teatro Sanità, perché è stata collocata in una nicchia permanentemente in quella sede. Massimo, sono affissioni non... La maggior parte dei casi sono affissioni non autorizzate, anche perché... Quindi sono azioni di arte civile? Sì, insomma sono azioni... Più vicine alla street art? Sicuramente sono più vicine come concetto alla street art. Io non sono uno street artist, per carità, se non gli street artist se la prendono, se io dicessi una cosa del genere. Ho preso in prestito il concetto della street art per collocare queste immagini e per lanciare un messaggio. Quello che io sto cercando di evitare un po' in tutti i modi è che qualcuno della politica o altro possa metterci un marchio. Quindi anche per questo io non voglio farlo, generalmente tendo a non farlo, se non in rari casi, come è successo per esempio a Lampedusa, dove il progetto poi paradossalmente è nato lì, perché io dal 2015 che frequento l'isola e che sto cercando di lavorare e di comprendere determinati fenomeni, però ho capito che non c'è niente da comprendere, perché Lampedusa non è altro che, come dire, un microcosmo specchio di tutto il resto. Quindi quello che succede a Lampedusa succede qui, succede a Bruxelles, succede a Londra, succede dappertutto. Però lì, chiaramente, avendo io un rapporto particolare con l'isola, non me la sono sentita di andare lì in silenzio. Quindi appena sono arrivato all'aeroporto, sono andato sopra al comune, ho srotolato Santa Brigida, che è stata una delle prime che ho collocato, ho srotolato Santa Brigida davanti al sindaco, ho detto: senta, io la metterò lo stesso. Ora, se lei mi dà, lo volevamo fare in collaborazione, bene, però altrimenti sappiate che poi in una parete dove metterla la metta, trovo. Alla fine lui piacque molto il progetto perché chiaramente è, cioè, voglio dire, beh, è una persona, no, ma è una persona anche di una certa vicinanza politica, che è quella parte politica aperta alla questione migratoria e non chiusa, e quindi disse: guarda, tutto quello che è comunale è a disposizione. Infatti fu poi collocata Santa Brigida sulla parete dell'area marina protetta che guarda il Porto Nuovo, da dove poi sbarcano generalmente, dove poi approdano i barconi, dove fanno poi sbarcare. E Santa Brigida però da dove arrivava? Adesso andiamo proprio da Santa Brigida. Come lavori tu sul set per la realizzazione dell'immagine? Per la realizzazione dell'immagine, generalmente io mi guardo attorno e quando individuo qualcuno che possa essere adatto a rappresentare quel determinato personaggio, gli propongo di posare. Generalmente accettano sempre. E poi costruisco poi tutti i paramenti, perché parto da scelgo un'iconografia, perché chiaramente ci sono diverse iconografie dei santi, ne scelgo una in particolare e in base a quella costruisco poi tutti i paramenti. E l'aggiunta è chiaramente la coperta isotermica, che poi è quell'elemento che unisce tutti i santi. Tutti i santi la coperta migranti. Dorata che è stata utilizzata anche dalla campagna Io Accolgo. Come simbolo? Vabbè, diciamo che è un simbolo che ormai viene anche un po' abusato, se vogliamo, tutti quanti lo utilizzano. Insomma, anche recentemente c'è stato un parroco di Cercola che ha coperto la statua della Madonna, con il quale sono in contatto perché vuole faremo qualcosa insieme. Ha coperto la statua della Madonna con la coperta isotermica. C'è un artista, Giovanni De Gara, che ricopre le porte delle chiese un po' in tutta Italia con le coperte isotermiche, l'ho fatto anche qui a Napoli al Duomo e alla Basilica, quindi è un elemento, in questo momento è un simbolo, si è diventato un simbolo. Qui ci troviamo di fronte a Santa Brigida, compatrona d'Europa. Questa è stata dopo Santa Patrizia, diciamo, la seconda icona realizzata. Ho deciso di realizzarla perché, essendo appunto presa a simbolo di un'Europa, ed essendo anche questa una questione europea soprattutto, diventava l'elemento che poteva unire un po' tutti i luoghi europei. Quindi Santa Brigida è stata messa, la prima immagine è stata messa innanzitutto a Matera, perché quest'anno è Matera la capitale della cultura europea. Poi è stata collocata la notte di Pasqua a Riace. A ridosso delle elezioni europee è stata messa a Bruxelles insieme all'hashtag qui riposa. Ah, qui riposa. Insieme all'hashtag qui riposa, tradotto in francese e in inglese ovviamente. Lampedusa, come vi dicevo prima, che guardava il porto. Insomma, come dire, guardiamo, non ci dimentichiamo che Lampedusa, che tra l'altro è un'isola, nonostante sia l'ultima, come dire, la porta d'Europa, definiamola così, spesso e volentieri non viene rappresentata all'interno delle mappe. Non c'è né Lampedusa né Linosa, però c'è Pantelleria, che poi insomma non è un po' più grande, tanto più grande di Lampedusa. Un po' più turistica. Poi dopo, quando andiamo in galleria, dove vi faccio vedere proprio gli altri santi, dove c'è la mostra, l'esame delle sotre, un bolero ricomposto, c'è un'opera dedicata proprio a questa assenza, okay? Delle mappe. Noi chiaramente abbiamo tutta la difficoltà di descrivere un'azione creativa, un elaborato creativo, un'opera visiva in radio, e descriverla con le parole. Chiaramente il consiglio è di farsi una passeggiata a Napoli, qui siamo in Piazza Bellini in questo istante. Sì, di fronte al ristorante vegetariano. Perfetto, quindi consigliamo entrambe una serata a tema. Potremmo descriverle come opere comunque molto, molto grandi, sono molto vistose, al di là del sì. colore dorato che risalta, sono anche di dimensioni notevoli, perché questo sì, sarà parliamo un di due un metri, no, sono 2,20 m per 1,22 m, 1,23 m, dipende dalle icone. Bene o male, insomma, la dimensione è questa qui. E quindi, insomma, ti dicevo che sì, sono immagini, in effetti partono dall'idea di Santino. Immaginate un Santino ingigantito. che non c'entra più nel portafoglio, insomma. Infatti io per i modelli poi realizzo, la chiamo l'opera domestica, che no? Gliela... un'opera più piccola come ringraziamento, insomma, per aver posato, e la chiamo proprio l'opera domestica, perché queste, insomma, effettivamente sono piuttosto invadenti. Santa Brigida, tra l'altro, è stata stampata anche molto più grande di questa, è stata stampata a 5 metri per 3 ed è stata fatta scendere da Palazzo San Giacomo in occasione di una manifestazione che ci fu... Sì, mi sa che risale a quello anche un articolo di Art Tribune. Sì, esatto. Dove si descrive, esatto, il progetto, il link è facilmente recuperabile, esatto, in rete, e ci sono le foto della messa in opera, esatto, sul palazzo, ma lì è veramente un'opera, insomma, sì, gigantesca. Sono 5, sì. E quindi poi una cosa importante da dire, insomma, agli ascoltatori, io credo, che oltre all'immagine c'è un testo che accompagna l'immagine, che nei santini generalmente è la preghiera. In questo caso invece è una storia che racconta più che altro, con poche parole, chi è Santa Brigida, in questo caso perché siamo di fronte a Santa Brigida, e soprattutto la storia della sua migrazione. Quindi in questo caso Santa Brigida, compatrona d'Europa, nata in Svezia nel 303, morta a Roma nel 1373. Fondò un piccolo ospedale insieme al marito e assistette i poveri per tutta la vita. Divennero entrambi terziari francescani. Alla morte del marito, Brigida migrò a Roma con Caterina, una degli 8 figli. Fondò l'Ordine del Santissimo Salvatore, visitò molti luoghi italiani dove si trovavano le reliquie dei santi. Fu canonizzata nel 1390. Questo per darvi un'idea di cosa poi c'è scritto. Chiaramente ogni icona ha la propria storia. Le prime installazioni di asfalto di posa che abbiamo fatto è stata quella di collocare a distanza di circa 30 metri l'uno dall'altro, al centro della strada, quindi sul selciato, questi manifesti incollati con le acqua per non rovinare il supporto, ovviamente. E quindi diventava una sorta di processione, una sorta quasi di via crucis, dove tu camminavi e ogni circa di 20-30 metri trovavi queste storie, no? Era di grande impatto. In genere, Massimo, nelle azioni di affissione sei da solo o...? No, generalmente sono da solo, se sono in compagnia è un caso. Sono da solo anche perché spesso io faccio, poi quando vado in un posto faccio prima un sopralluogo per cercare di capire quale possa essere la parete migliore, perché ovviamente bisogna che ci sia una parete liscia, che non sia troppo porosa, che abbia determinate caratteristiche, perché se no si attacca. Però poi puntualmente, quando poi scendo con i poster per collocarli, li metto in tutti altri posti poi. E poi diciamoci la verità, insomma, sono azioni che io faccio generalmente di notte e quindi poche sono le persone disponibili a fare le 3 o 4 del mattino, insomma, a mettere i santi migranti in giro per le strade. Ah, una cosa importante, insomma, che i manifesti, queste fotografie non sono firmate. Allora, io sono un artista e lavoro con la fotografia, quindi una delle prime cose che un autore fa è quella di firmare le proprie opere. Io in questo caso non le firmo, ma non per un motivo specifico, che è quello che non volevo, soprattutto nella fase iniziale, che questo processo, questo progetto diventasse un nome immediatamente. Quindi volevo che venisse fuori il messaggio e non il nome della persona. Infatti c'è sempre comunque solo il logo di Santi Migranti, con la S scritto in nero, con la sola S in colore azzurro, che è il colore del mare, il colore del cielo, insomma, quindi tutte queste cose qua. Questo anche per evitare magari, appunto, critiche, immagino, del tipo, ok, questi sono... Ma no. Questa, una volta una giornalista mi ha fatto una domanda simile, mi ha chiesto se ero preoccupato del fatto di poter essere accusato di cavalcare un'onda, no? Di speculazione in questo senso. Io gli ho detto, quello che io ho risposto, ho fatto, non è un problema che mi pongo assolutamente, ma nella misura in cui cioè io scendo e mi metto in gioco fisicamente, non è che lo faccio fare ad altri, anche perché molte delle azioni io le ho fatte anche e continuo a farle in una zona dove poi dopo andremo, che è una zona storicamente di destra, dove c'è la sede di Casa Pound, dove ogni volta che io scendo per mettere un manifesto o di Qui Riposa o di Santi Migranti, rischio brutto, poi dopo vi faccio vedere. Quindi cioè, speculare che cosa? Massimo, invece altre reazioni che ci sono sulle opere, c'è qualcuno che le considera magari blasfeme? No, blasfeme no, devo dire, fino a questo momento non c'è mai stata un'accusa di questo tipo, anche perché una cosa molto interessante è che io ero inizialmente preoccupato per la reazione della Chiesa Cattolica, però devo dire che proprio la Chiesa Cattolica è stata quella che ha compreso perfettamente il senso di questo lavoro, perché proprio loro, soprattutto un parroco napoletano, una parrocchia napoletana che si chiama Padre Antonio Loffredo, mi diceva: fatto quello che tu non hai considerato, che con questo lavoro tu hai restituito umanità a questi santi che ormai erano diventati degli idoli. Quindi insomma, è un lavoro importante anche sotto questo punto di vista. Quindi la Chiesa ha compreso bene il significato, tant'è che la Chiesa sta accogliendo i santi migranti anche all'interno delle chiese. Ed è un fatto, tra virgolette, storico, perché credo non sia mai successo che la rappresentazione fotografica contemporanea di un santo sia entrata all'interno di una all'interno della chiesa, no? Come elemento, anche come immagine di culto, se vogliamo. Quindi devo dire, ribadisco, io non sono cattolico, quindi non faccio propaganda alla chiesa, però devo dire che chi si sta dimostrando in questo momento storico di grande impoverimento culturale, sociale, umano, si sta dimostrando veramente rivoluzionaria, perché va contro. Qualche giorno fa è stata realizzata è stata portata a San Pietro la croce con il giubbotto di salvataggio ritrovato in mare, che forse assieme alla coperta termica è uno dei grandi simboli che vengono utilizzati per parlare del fenomeno migratorio. Ah, ecco là, lì però c'è... Allora, qui invece ci troviamo in pieno centro storico a Napoli, anche Piazza Bellini lo è, però qui siamo proprio sulla parete laterale del cinema multisala modernissimo, che tra l'altro insomma, è uno dei pochi cinema rimasti in centro, in città, perché poi sono stati tutti delocalizzati. E in collaborazione con Luciano Stella, che è il proprietario di questo cinema, abbiamo deciso insomma, di collocare in maniera permanente questa immagine sempre di santi migranti, che in questo caso non è un santo cattolico o cristiano, ma forse non è neanche un santo, ma è bensì il Dalai Lama. Perché ho scelto il Dalai Lama? Perché insieme ai santi migranti religiosi insomma, ho voluto realizzare anche alcuni santi laici. Uno di questi insomma, è il Dalai Lama, che sempre con le stesse dimensioni, sempre con la coperta isotermica, sullo sfondo alle montagne innevate del Tibet e le bandiere tibetane che sventolano nel cielo. E la scritta racconta la sua storia, quindi che è nato in Tibet nel 1935, all'età di 2 anni fu riconosciuto come reincarnazione del 13° Dalai Lama. Iniziò il suo percorso monastico a 6 anni, conseguendo a soli 23 anni il titolo di studio più avanzato della filosofia buddista. Nel 1950, dopo l'invasione cinese del Tibet, assunse pieni poteri politici, ma nel 1958, in seguito alla repressione cinese e delle sommosse tibetane, sua santità fu costretto all'esilio, trovando rifugio in India, dove tuttora risiede. Da allora gli è impedito dal governo cinese di rientrare nel suo paese. Quindi, per quanto mi riguarda, anche lui è un santo migrante, così come un santo migrante è stata la figura straordinaria di Jerry Maslow, che era questo ragazzo del Sudafrica che negli anni 80 arrivò all'aeroporto di Fiumicino a Roma, chiese asilo politico, ma all'epoca non solo quelli dei paesi dell'est, di alcuni paesi dell'est Europa potevano chiederlo. Quindi rimase bloccato diversi mesi in aeroporto, per diversi mesi è rimasto bloccato lì in aeroporto senza poter uscire. Solo grazie all'intermediazione di Amnesty International e della comunità di Sant'Egidio riuscì a uscire, insomma, riuscì a tornare a vivere una vita normale, insomma, se vogliamo. Finché a un certo punto lui, insieme ad alcuni amici, parte per Villa Literno per andare a raccogliere i pomodori, insomma, cose varie. E una sera, secondo la versione, diciamo, ufficiale, per un tentativo di rapina al quale lui si ribellò, fu ucciso. Un tentativo di rapina a quattro poveri disperati che vivevano in una baracca, insomma, mi sembra un po' una versione un po' fantasiosa. Comunque prendiamola per buona, non facciamo polemica. Grazie a lui, purtroppo grazie alla sua morte, il diritto di asilo politico fu poi esteso a tutti. Indipendentemente dalla provenienza, tutti potevano da quel momento in poi chiedere, avrebbero potuto chiedere asilo politico. Quindi un'azione, un sacrificio, un'azione forte, un uomo, insomma, che ha lottato anche contro il caporalato, contro tutta una serie di cose. Quindi se non è un santo uno così, ditemi chi è stato oggi come oggi. Un martire sicuramente, insomma. Questo sicuramente. Allora ti spiego, quando ero freddo, io lo contattai perché volevo, dato che conoscevo di fama. Lui è uno molto attivo all'interno del quartiere Sanità, che come ben sai, insomma, è un quartiere molto difficile della città, ed è un quartiere che sta rinascendo in qualche modo grazie anche, insomma, alla sua opera, insomma, grazie anche alla tenacia e al genio di Mario Gerardi, che è quest'uomo che ha lanciato e sta sostenendo molto in maniera straordinaria il nuovo teatro Sanità, insomma, è quello che ha creato, insomma, voglio dire, insieme all'altra persona del nuovo teatro Sanità, e quindi stiamo facendo veramente dei lavori insieme, così a come tante altre organizzazioni della società civile, con la C maiuscola. E quindi il quartiere Sanità sta diventando un punto di riferimento, laddove prima non ci andava mai nessuno, ma tutti quanti vanno nel quartiere Sanità. E quindi, per una questione proprio sempre di rispetto, chiesi l'autorizzazione a poter mettere l'icona di San Gaudioso sulla parete esterna della basilica. Però quando lui poi vide il progetto disse: ma scusami, perché la dobbiamo mettere sulla parete esterna? Qua ormai è già un pieno di graffiti, pieno di murales, se andiamo a mettere pure questo, così, insomma, si perde. E poi comunque, insomma, no, mi dispiacerebbe se diventasse una sorta poi di Disneyland. Infatti io ti propongo di metterlo all'interno della basilica come proprio opera fissa. Wow. E si trova, poi dopo andiamo a vederla, si trova praticamente in corrispondenza dell'accesso delle catacombe di San Gaudioso. Perciò si trova, c'è questo rapporto con padre Antonio Loffredo, e perciò l'icona di San Gaudioso si trova all'interno della basilica. Penso che non sia mai successo, insomma, che, come dicevo prima, insomma, che la rappresentazione fotografica di un santo, in chiave contemporanea poi, e soprattutto con un messaggio ben preciso e anche molto forte, cioè venisse in qualche modo accolto all'interno della Chiesa, perché sappiamo bene che poi la Chiesa, insomma, è soggetta anche a tutta una serie di iter, cioè, è successa una cosa simile a Ischia, perché sempre, per esempio, Santa Restituta, che è una santa molto amata sull'isola, l'ho collocata adesso all'inizio di dicembre, il 9 dicembre l'ho collocata nel cortile della chiesa di Santa Restituta, in collaborazione con il comune di Loccamino, ma anche con il parroco. Quindi ancora una volta, insomma, la chiesa ha accolto, ed è stato molto interessante vedere poi le reazioni delle persone lì. Vedere le reazioni delle persone che lì era un po' preoccupato, soprattutto le signore, no? Quelle che frequentano assiduamente la chiesa. Però quando a un certo punto uscivano dalla canonica e se la ritrovavano di fronte, si fermavano, la guardavano e dicevano: ma com'è bella! Quindi questo mi ha rincuorato fondamentalmente, ho detto: bene, l'hanno accolta, quindi va bene, ho avuto il lascia passare. Quando io ho iniziato questo progetto non mi aspettavo niente. Non mi aspettavo neanche che li avrei cominciati a mettere in giro per la città, insomma, perché per un artista e per un fotografo nello specifico abituato a stare, come dire, all'interno di luoghi protetti, quali possono essere una galleria, una struttura museale, uno spazio comunque preposto all'arte, insomma, uscire da quelle famose comfort zone, inizialmente non ci pensavo proprio, quindi ho detto mo li faccio. Ok, li faccio, comincio a realizzare questi santi migranti, ho cominciato a realizzare uno, due, tre, insomma, cose varie, e poi io ritengo, insomma, che sia fondamentale uscire da quelle zone di tranquillità, insomma, perché se noi vogliamo lanciare un messaggio, dico, noi artisti vogliamo lanciare un messaggio alla gente, dobbiamo uscire, perché la gente non entra nei musei, la gente non entra nelle gallerie. Sì. E allora non avrebbe avuto senso in questo modo questo progetto di Santi Migranti. Perciò a un certo punto ho detto ok, si esce per strada, a quel che succede. Chiaramente uno deve starsi anche alle reazioni delle persone, perché nel momento stesso in cui tu offri alla collettività qualcosa, quella cosa diventa la collettività e la collettività può farne quel che vuole. Anche rubarli è capitato, che ci hanno provato, il problema è che non ci si riesce. Beh, su opere così grandi dura. Vabbè, non ci si riesce, no, perché vengono incollate, è vero che sono incollate con colle ad acqua, però lancio un suggerimento: se qualcuno fosse interessato, insomma, a rubarlo, dovrebbe impregnarle di acqua, aspettare che si e poi pian piano cominciare a staccarle. I consigli perché per rubare di Radio Antenna Migrante. Come rubare la nuova un santo migrante. Sì, ci stanno tante relative. Poi è interessante perché in effetti si capisce quando uno cerca di staccarli, perché cominciano a avere questi piccoli strappettini, generalmente iniziano agli angoli, poi ai lati, cose varie, però poi non ci riescono. Allora, questo qui invece è Sant'Erasmo, chiamato anche Sant'Elmo, infatti noi a Napoli abbiamo un castello che si chiama Sant'Elmo, che è lo stesso di Sant'Erasmo. Questo è uno dei santi che ho realizzato, protettore dei marinai, che ho realizzato, ma forse quello più sfortunato, perché è stato collocato in tre posti, in due è stato completamente tolto, era stato collocato al Corso Vittorio Emanuele, il giorno dopo non c'era proprio più, è stato proprio completamente rimosso. Il secondo è questo qui, che resiste a tre quarti, però senza lo possiamo, la storia in basso. Senza la storia, che è stata strappata, anche perché io penso che comunque nel tempo, soprattutto le parti basse, tendono a scollarsi, perché sono le parti più soggette all'acqua, sia per la pioggia ma sia anche per gli schizzi, insomma, perché l'acqua poi tende a salire sulle pareti. E quindi è probabile che forse, visto che si scolla, tentano di strapparlo e di rimuoverlo, però poi si blocca perché poi, insomma, il taglio è quello, insomma. E quindi questa è l'unica porzione di Sant'Erasmo che resiste. Devo pure a Ischia l'hanno tolto, insomma, subito, immediatamente. In alcuni momenti ho utilizzato per gli sfondi delle proiezioni che sono state poi accentuate in post-produzione, però poi alla fine, tranne alcuni che sono ambientati, quindi lo scatto è stato fatto soprattutto quelli che hanno, che ne so, il bosco sullo sfondo, del verde sullo sfondo. Il cielo no, è stato aggiunto dopo. È una composizione. Per esempio, qua non si vede tanto in quest'opera qui di Sant'Erasmo. Sant'Erasmo sullo sfondo invece portava il quadro di un pittore, Nicolà, non ricordo in questo momento il nome, che raffigura proprio il martirio di Sant'Erasmo. Massimo, però all'inizio, proprio al di là dell'azione di qui riposa, tu dicevi che hai frequentato anche tanto Lampedusa per provare a capire meglio cosa succedesse lì. Come mai? Cioè, non è una cosa così usuale, no? No, non è una cosa usuale, insomma, anche se per molte, per diversi artisti, diverse persone, insomma, Lampedusa come Lesbo, insomma, sono luoghi dove a un certo punto uno sente la necessità di andare. Non sempre necessariamente per un motivo specifico, perché è una sorta di richiamo. Nel mio caso arrivavano tutte queste informazioni attraverso i mass media, la televisione, i telegiornali, insomma, cose varie. E sentivo sempre parlare come Lampedusa, come luogo di accoglienza, Lampedusa, insomma, il sindaco, Giusy Nicolini, candidata a premio Nobel per la pace, insomma, cose varie. Quindi mi sono detto, ma cos'è questo luogo? Mi sembrava quasi un luogo alieno, dice, ma come? Insomma, c'è tutta questa, c'è così tanta avversione nei confronti, insomma, dei migranti, e a Lampedusa no, non succede nulla, cioè viene tutto accolto in base a quello che ci dicevano. E quindi è da qui che è nata la mia, in seguito a questa cosa noi abbiamo avuto un ospite francese che era una giornalista, che mentre io pensavo di andare o non andare a Lampedusa, i famosi segni, no? Io non credo nella casualità ma nella causalità. E quindi, insomma, lei mi raccontò che era stata a Lampedusa pochi mesi prima, che aveva fatto un servizio, che aveva visitato il centro di accoglienza, che di accoglienza non aveva proprio niente. Quindi per una serie di ragioni, a un certo punto, insomma, io sono deciso di partire per andare a Lampedusa, ed era il 2015. Ed è stata per me per la prima volta sono stato circa 40 giorni sull'isola. Ed è stata un'esperienza molto forte, insomma, perché innanzitutto sono cominciate a crollare tutte quelle idee che mi si erano formate nella testa. Cioè, nel senso che sentivo per strada anche persone del posto, insomma, che parlavano contro i migranti, insomma, che non avrebbero preferito non averli lì sull'isola, insomma, che tutta una serie. Quindi mi sono reso conto che in realtà era Lampedusa non è altro che in piccolo, molto in piccolo, un specchio di quel che succede di dovunque, dove ci sono quelli che sono a favore e quelli che sono contrari. E quindi, insomma, poi si è creato con Lampedusa un legame molto forte, anche perché, cioè, mi sono dato il tempo giusto, insomma, da dedicare agli incontri, alle persone, all'ascolto. E infatti c'era una ragazza che ho incontrato nel collettivo Ascausa, è un collettivo, insomma, che aveva messo su questo posto, questo luogo che si chiama Porto M, che è una sorta di luogo Porto M. La M sta per migrante, sta per memoria, sta per Mediterraneo, insomma, cose varie. Quindi avevano raccolto tutti questi elementi lasciati sull'isola e hanno realizzato questo museo proprio della testimonianza, io la definirei di testimonianza di passaggi. Okay? E quindi lei dice, ha fatto, guarda Massimo, noi siamo stanchi, siamo esausti, perché soprattutto a ridosso del 3 ottobre, delle celebrazioni del 3 ottobre, quando ci fu la strage nel 2013, ogni anno c'è questa manifestazione che per commemorare quel momento, soprattutto in questo frangente a Lampedusa arriva il mondo, dove tutti quanti vogliono prendere qualcosa, vogliono un'intervista, vogliono una dichiarazione, vogliono, vengono ma non lasciano nulla in cambio. Che non significa qualcosa di materiale, ma neanche il tempo di un incontro, di una conoscenza, di dire guarda, siamo persone, sediamoci a un tavolino, parliamo, poi vedi che le cose vengono da sole, non c'è bisogno che tu vieni a estorcere, come dire, insomma, una dichiarazione, qualunque essa sia. E tra l'altro loro sono molto attivi, perché voi sapete che dietro la strage del 3 ottobre ci sono molte ombre, non è come viene raccontata una cosa fortuita, ci fu il ribaltamento della barca, ma ormai è assodato che sul luogo del naufragio erano presenti delle imbarcazioni che a un certo punto hanno fatto marcia indietro e sono andate via, perché là se si fosse intervenuto in tempi giusti probabilmente quella strage si sarebbe evitata. E quindi loro stanno battendo e combattono molto affinché venga fuori questa verità, la verità. E quindi, poi chiaramente, io dico sempre, sono arrivato a Lampedusa da solo e sono andato via con degli amici. Cioè, io oggi a Lampedusa veramente ho delle persone che per me sono veramente parte della mia famiglia, perché grazie al tempo che io mi ero dato per stare sul posto, per incontrare, per conoscere cose varie, loro hanno molto apprezzato questa cosa qui. È molto interessante rispetto alla mia ricerca personale, che è nata a Lampedusa, è che tutto il lavoro che io avevo realizzato nel 2015 e nell'anno successivo, io avevo difficoltà a farlo venire fuori, avevo difficoltà a mostrarlo, perché mi sembrava quasi un volere in quel caso speculare su qualcosa, e quindi non l'ho mai voluto mostrare. L'ho tenuto, insomma, all'interno dei miei archivi, delle mie, e ho atteso finché a un certo punto questo lavoro pian piano si è cominciato a cambiato forma, nel senso che, perciò dico che Santi Migranti è nato a Lampedusa, hashtag qui riposa, cioè è nato a Lampedusa. Parte del lavoro che poi magari di cui vi parlerò quando arriveremo su in galleria è nato a Lampedusa, quindi quello che era già un lavoro organico, apparentemente organico, a un certo punto si è smembrato e sono diventati una serie di lavori. Quindi questo è l'ingresso della chiesa di Santa Patrizia, con patrona di Napoli. Contrariamente a San Gennaro, che scioglie il sangue 2-3 volte l'anno, Santa Patrizia scioglie il sangue tutti i martedì. Quindi, vabbè, le donne sono più generose, lo sappiamo, no? Ed è una figura alla quale io sono molto legato. Non ho mai capito il perché, in realtà. E quindi una cosa è successo, che quando ho realizzato Santa Patrizia per Santi Migranti, io volevo collocarla qui. Però mi era stato detto che le suore, insomma, del complesso monumentale, insomma, non sarebbero state molto d'accordo con questa cosa. Allora cosa ho fatto? Ho realizzato i santini, perché nella fase iniziale, oltre alle gigantografie, c'erano, cioè, proprio i santini. Io realizzavo proprio il santino formato santino, che la gente poteva prendere e mettersi nel portafogli. Quando c'è stata la festa di Santa Patrizia, io cosa ho fatto? Ho preso questi santini e ho cominciato a distribuirli all'interno della chiesa e dove c'è il coro, praticamente, dove c'è l'organo, dove è custodita l'ampolla con il sangue della santa. E quindi, insomma, erano stati distribuiti lì. Ed è stato molto bello vedere come le persone vedevano questi santini, li prendevano, gli davano il bacetto e se lo mettevano in tasca o all'interno del portafogli. Però in realtà non capivano. Ovviamente, vedevano l'immagine, leggevano sotto Santa Patrizia Vergine e, insomma, quindi si affidavano a quello. Poi sarebbe interessante capire cosa è accaduto quando poi invece hanno letto quello che c'era scritto dietro, che non era la preghiera, ma era la storia della migrazione di Santa Patrizia. Quindi, queste sono altre azioni che non si vedono, ma che sono state fatte. Stessa cosa è stata fatta nella Basilica di San Marco a Venezia. È stato collocato San Marco nei pressi di Campo Santa Margherita e poi contestualmente sono stato nella Basilica, nel Duomo di Venezia, a distribuire questi santini che improvvisamente poi li vedevi in mano alle persone, no? Che se li guardavano. Poi San Marco è molto bello, è molto caravaggesco come è stato rappresentato. Hai vissuto comodi e bene. Però voglio dire, Santa Patrizia è nella chiesa, nella basilica di San Gregorio Armeno, che anche lui, come dice il nome, non è proprio nato no. Qui. Ma neanche noi più avanti, qui c'è piazza San Domenico Maggiore, ma neanche San Domenico è italiano. Ah, no? No. Vedono questa iconografia, no? E poi leggono sotto il nome, quindi associano. Però poi vedi, a un certo punto rimangono spiazzati. Dici, ma che è sta cosa? Perché fa questo mantello d'oro? Mi colpì una volta una coppia di persone anziane nella sanità, nei vergini, più che altro, dove c'era Santa Patrizia, che non c'è più, insomma, penso che là si sia staccata, perché non è stato un sacco di tempo. Che a un certo punto si fermarono di fronte all'icona di Santa Patrizia. E per parlare, qui mi avvicinai piano piano e sentii proprio la signora che a un certo punto, rivolgendosi al marito, diceva: ma questo è un lavoro, è un lavoro sui migranti, vedi, perché vedi c'è la coperta d'oro, quella lì che danno ai ragazzi, quelli che sui barconi, insomma, e cose varie. Quindi poi si soffermano, ragionano e collegano poi le cose. Beh, sono cose che avvengono solo se uno le colloca in strada così, per effettivamente. No, certo. Le avvicina a tutti. Collocarli altrove, collocarli come dire in una galleria o in un museo, fa scacco matto, perché non più uno fa due, insomma, non avrebbe senso. Avrebbe senso anche lì, però il senso profondo lo ritrova poi in tutta l'azione che uno fa, l'azione. Allora, nel mese di ottobre dello scorso anno, non di quest'anno, quindi non 2019-2018, ci fu una chiamata degli artisti a Riace in seguito all'arresto di Mimmo Lucano, sì, per capire, per incontrarci gli studenti o quelli che erano presenti, per ragionare su cosa potevamo fare noi operatori dell'arte per Riace, per Mimmo Lucano. In seguito a questo weekend di incontri stabilimmo sul posto, si stabilirsi comprese finalmente che in realtà noi non potevamo fare proprio niente, né per Riace né per il sindaco. E infatti finì tutto in una bolla, ciao Klaus, finì tutto in una bolla, insomma, di sapone. Insomma. Però il lavoro fatto a Lampedusa, in questo incontro a Riace, suscitò in me, insomma, una reazione chiaramente al governo, soprattutto primo governo Conte, dove c'era Matteo Salvini, ministro dell'interno. Quindi soprattutto nasce come reazione proprio mia, insomma, a quel tipo di visione, a quel tipo di politica. Beh, diciamo che da un lato c'è chi bacia il rosario o si affida la Madonna di Medjugorje. No, vabbè, io la mia Santa Brigida migrante l'ho realizzata prima che il signor Salvini, insomma, si appellasse, insomma, a tutti i santi patroni d'Europa in occasione. Quindi è stato, insomma, una realizzazione precedente. Quando ho sentito questa cosa un po' ridicola da parte del ministro dell'interno, ho detto va bene, allora, cioè, io mi auguro prima o poi Santa Brigida ce la trovi in pancia. Io la sono andata a mettere vicino al Parlamento europeo, vicino al Parlamento italiano a Roma, dove è rimasta 3-4 giorni, poi l'hanno tolta. Tanti migranti è anche un lavoro, soprattutto un lavoro di risposta gentile, insomma, a messaggi invece razzisti, populisti, volgari, arroganti, insomma, tipici dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini. Quindi, insomma, si arriva a un punto in cui uno dice ma che posso fare? Cioè, ha già fatto una cosa l'ha già fatta. E chiaramente io utilizzo, tra virgolette, l'arma inteso come strumento, in questo caso a me più congeniale, che è la fotografia, che non utilizzerei mai lo stesso tipo di linguaggio o lo stesso tipo di atteggiamento, perché non lo saprei fare. Però sicuramente è un messaggio che sottolinea delle unioni tra culture, non invece utilizzata come da qualcun altro il simbolo sacro per creare delle divisioni. Ma soprattutto, insomma, il simbolo sacro in questo caso viene spogliato della sua sacralità, gli viene restituito, come dicevamo prima, il suo aspetto umano. Quel che è stato fatto da parte, insomma, di Matteo Salvini, quello di baciare il rosario in pubblico, di appellarsi ai santi patroni d'Europa e compagnia cantando, chiaramente io l'ho trovata una volgare strumentalizzazione e proprio delle icone, del messaggio d'amore che queste persone poi portano con sé, insomma, quindi è una contraddizione in termini. cioè, stona come... sicuramente. Stona, sì. Un po' come, lasciatemi passare l'esempio, eccessivo ovviamente, però calza bene. Come quando si facevano le crociate e si andava in giro ad ammazzare la gente in nome di Dio. Ribadisco, è un esempio, è una metafora. Io mi auguro che, insomma, certe persone non arrivino a tanto, però, insomma, il messaggio che lanciano, insomma, non è un messaggio di accoglienza e soprattutto di rispetto nei confronti delle diversità, perché purtroppo questo è un atteggiamento che si ha non solo nei confronti di chi ha la pelle scura, di chi ha la pelle di colore diverso dalla nostra, o di chi ha o di chi crede, insomma, in qualche altra cosa. È un atteggiamento che si ha proprio a 360 gradi, un atteggiamento che si ha in generale nei confronti proprio del diverso. Quindi, insomma, discorsi, insomma, xenofobi, omofobi, cioè tutto quello che è diverso da sé è il nemico, diventa il nemico da combattere. E allora questo non va bene. Com'è successo che qui venisse collocato Sangaudioso in un'opera fotografica della serie Santi Migranti? È successo perché qui in questa basilica soprattutto ci sembrava la cosa più naturale. Noi abbiamo un gruppo di ragazzi del quartiere che ha scelto un po' di investire nel futuro, no? E quando ha investito nel futuro si sono impattati con le catacombe. Le catacombe sono ben 17 secoli che raccontano la stessa cosa. Sangaudioso fu accolto nella città di Napoli quando fu cacciato dal Nord Africa insieme a tutti i suoi amici, e tutto questo è raccontato proprio con la bellezza dell'arte, sta dipinto giù sulle pareti, sta scritto da secoli, e noi a tutti mostriamo già giù nelle catacombe gli affreschi, i mosaici di Caudioso, di Podvultedeus, di tutti gli amici africani che fuggendo trovarono riparo in questa città. E ci sembrava logico e opportuno continuare in questa linea e ricordarlo anche all'esterno della catacomba, che qui è custodita una memoria preziosa di chi un giorno ha dovuto lasciare la terra e ha trovato in questo paese una fraterna accoglienza. Ci sembra tutto così normale, ci sembra proprio strano che delle persone dopo tanti secoli abbiano avuto questa involuzione così terribile. Diceva qualche tempo fa un collaboratore prete che veniva dall'Africa, spiegando la catacomba, quando erano più civili nel V secolo. No, è così, e purtroppo, no, nolenti o nolenti, sembra che anche una cosa così naturale come l'accoglienza sia diventato un qualcosa da dover quasi straordinario, straordinaria, quasi da doversi, se vogliamo. Sicuramente diventa che qualcosa di straordinario, e noi, per quello che stiamo incontrando adesso, poi ce lo ritroviamo come predisposizione nei luoghi più impensabili, e poi soprattutto con una naturalezza biologica dell'essere umano, che tutti restano stupiti dal fatto che invece poi ci sia un'attenzione di questo tipo, e sembra anche così strano che se ne parli in modo... Sì, è molto molto strano. Cioè, la nostra storia è questa, ecco perché ci piace, e il lavoro che ha fatto Massimo è molto interessante, perché va a riscoprire le nostre radici che non possiamo tradire né nasconderle. Cioè, il grosso anche della nostra fede ci viene da loro, ce ne siamo grati per sempre. Cioè, tutto quello che abbiamo ricevuto, lo stesso Agostino, lo stesso, che tutti vengono da quel tipo di regione, no? E se noi siamo oggi cristiani è perché queste persone hanno attraversato quel mare, sono stati abbracciati e ci hanno portato quello che è stato, quello che diciamo, no? La nostra cultura, della quale siamo così gelosi, ce l'hanno regalata loro. Allora, questo fatto darà fastidio a qualcuno, avranno certamente altri problemi, no? Ed è diventato ultimamente questo sollecitare la pancia delle persone che soffrono, evidenziando un problema che non c'è, assolutamente non c'è. Per noi che siamo cristiani, poi addirittura stiamo scantonando, in effetti, no? È così elementare la nostra fede, e c'ha soltanto una parola nella nostra preghiera: il nostro. Non esiste un Dio mio e un Dio tuo, no? Esiste un Padre che è nostro, quindi c'è qualcosa che non va. Cioè, forse si dovrebbe intervenire con strumenti un po' lasciati indietro nei secoli, si dovrebbero scomunicare certe persone che dicono ai credenti delle verità che non sono verità. La verità è che siamo tutti fratelli e siamo figli di Dio. Se togliamo quello dal perno cristiano, dimmi che ci rimane di cristiano. Niente. No, è così. E soprattutto poi in un periodo come questo qui, dove si vengono tirati in ballo alcuni simboli che magari non sono così lontani come tradizione, come storia, però cioè, nelle nostre case c'è non lo so, io mi ricordo il presepe, il periodo in cui uno si fa il presepe, ho avuto la fortuna, mio padre, di farli e di, tramite lui, di leggere tutti i particolari che ci sono simbolici in quella storia che stiamo vivendo in questi giorni di Natale. E alla fine uno riscopre che le proprie radici, la propria cultura, utilizzando termini di qualcun altro, vanno in tutt'altra direzione. Se si approfondiscono, sono queste qua. In questo l'arte, appunto, che ruolo può avere nel comunicare anche questa complessità, nel renderla immediata? E l'arte ha un ruolo fondamentale, perché l'arte non è un discorso concettuale, è un discorso che va nella pelle, no? Quindi è la via della folgorazione, ti parla attraverso qualcosa che ti piglia la pancia, ti piglia il cuore, e quindi è lo strumento migliore per sollecitare quella che è la nostra vera natura. La parte bella di noi viene nutrita con l'arte, e questa parte bella ultimamente si è sporcata, perché la stanno nutrendo di altro che non è bellezza. Quindi parlare attraverso questi segni così delicati ma così profondi ci sembra la cosa migliore. Proprio in questi giorni, diceva Massimo, un altro artista ha fatto una provocazione con un'opera che dopo andate a vedere a San Severo, no? Ha messo un figlio velato. È evidente che quel bambino sta su una spiaggia ed è morto. È evidente che quel velo è un pezzo di stoffa inzuppato d'acqua. È evidente che quella manina vuole uscire fuori quel velo e vuole dirci qualcosa. Almeno ci vuole dire che questo non avvenga mai più. Quindi si continua attraverso la via della folgorazione a parlare a queste persone che stanno nutrendo invece il cuore di ciò che non è bello. E quando incomincia a entrare nel cuore ciò che non è bello, quando l'estetica crolla, l'etica a pezzi. No, quindi è importante che gli artisti stanno tenendo alto il discorso nell'estetica di un'etica che l'accompagna in maniera indissolubile. Beh, il modo migliore per parlare alla pancia delle persone, perché si deve parlare anche alla pancia delle persone. Ma è bello vedere che si può fare veicolando attraverso la verità e non attraverso le bugie. No, questo va dato atto anche nell'immediatezza. Nell'immediatezza, in quelle immagini che ci bombardano televisivamente, riviste in un altro modo, rilette in un altro modo, quasi come segno di sacralità, come segni di abbracci. Questi teli termici ci ricordano quello che stanno vivendo i nostri fratelli, no? E che stanno addosso a questi santi, è il loro posto più naturale, non ce n'è un altro, no? Per ricordare che anche loro avrebbero avuto questi strumenti oggi, in questo passaggio di questo meraviglioso mare nostro. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.